Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata anche da parte mia, gentili ascoltatori, ben ritrovati. Nuova puntata, l'ultima della settimana di Nessun luogo è lontano. I saluti mi vengono anche da parte di Miriam Lucchetti, Massimo Brugnone che sono con me in redazione e Robby Scaltriti alla parte tecnica. Tanta carne al fuoco quest'oggi e per commentare quindi i temi di cui parleremo quest'oggi, perché salteremo tra Londra e Mosca, lo avete sentito anche dal GR, insomma l'attualità richiama la nostra attenzione. Dicevo, per commentare la mail nessunluogo@radio24.it, gli sms 349-238-6666 e poi Facebook nessunluogolontano-radio24 e infine Twitter nessunluogo24. E vi dicevo, cercheremo di saltellare, di dividere il nostro tempo tra Mosca e Londra, perché due grandi vicende richiamano la nostra attenzione, entrambe dai contorni giudiziari, una in realtà sta assumendo anche intriganti contorni diplomatici, quella di Julian Assange, ma intanto noi iniziamo con Mosca. E do nuovamente il mio buongiorno a Antonella Scott. Buongiorno. Antonella, buongiorno. Allora, il giudice Marina Sirova leggerà il suo verdetto, ormai atteso in realtà a minuti. Impossibile, a meno di eclatanti colpi di scena, un verdetto di assoluzione. Molti attivisti, ma anche molti commentatori, hanno detto il Cremlino ha già deciso. E anche gli stessi avvocati difensori delle tre ragazze, no, temono un po' una decisione dall'alto. Quella performance di 30 secondi dentro la cattedrale del Cristo Salvatore sta però, come ci siamo già detti Antonella la settimana scorsa, forse producendo frutti inaspettati persino dalle tre, perché vi sono, mentre vi stiamo parlando, mobilitazioni generali un po' in tutto il mondo, sit-in, presidi, fresca delle ultime ore Paul McCartney che si è accodato, no, alla lunga fila di musicisti, politici, attivisti che sostengono le tre. Fra l'altro c'è anche la parte italiana, perché a Milano quest'oggi in via Dante a partire delle 17 c'è un sit-in organizzato, fra l'altro, dall'organizzazione Anna Viva, che è quell'associazione che si ispira alla giornalista Anna Politkovskaja. Antonella, ricominciamo a fare il toto tribunale in questi minuti, ore che ci separano da questo pronunciamento. Vedremo quanto lunga sarà questa lettura. Tu che cosa ti aspetti? È difficile appunto immaginare in un gesto, nel gesto che tutti sperano, cioè di un gesto di tolleranza, di clemenza da parte del tribunale, quindi la colpevolezza ci sarà sicuramente. Ecco, il giudice ha iniziato proprio in questo momento la lettura del verdetto direi che sicuramente il clima bisogna anche pensare che il clima all'interno della Russia è molto diverso rispetto a quello che leggiamo noi, che viviamo noi, sia in modo diretto, partecipando alle manifestazioni oppure anche online. Tra l'altro appunto anche Amnesty International ha invitato chi non può partecipare direttamente, no? Comunque a seguire, a pubblicare online fotografie di persone che sono considerate prigionieri politici. Ecco, la sensibilità nostra è molto diversa rispetto a quella della maggior parte dell'opinione pubblica all'interno del paese. Fuori dal tribunale di Mosca, Khamovniki, ci sono forse 2000 persone a dimostrare il loro sostegno alle tre ragazze, ma bisogna pensare che la maggior parte di loro in realtà sono anche giornalisti, quindi comunque un riflesso della nostra attenzione, della nostra sensibilità. Sì. E all'interno della Russia l'opinione, se sicuramente la maggior parte dei russi ritiene sproporzionato quello che potrebbe essere una condanna, che ecco, se vogliamo anche provare a fare delle previsioni, il reato di cui loro sono accusate, che appunto ricordiamo è teppismo nato da incitamento a odio religioso, prevede pene che possono arrivare anche fino a 7 anni, l'accusa ne ha chiesti 3. Putin si è inserito nel dibattito invitando i giudici ad avere clemenza, quindi chissà, potrebbe essere un anno, sembra difficile pensare che possano arrivare a considerare una pena sufficiente il fatto che queste tre ragazze, Masha, Katia e Nadia, sono già comunque state in prigione da fine di febbraio, quindi si potrebbe anche, ecco, credo che la speranza più la migliore che possiamo avere è immaginare che venga considerata una pena sufficiente quella che hanno già scontato. Fra l'altro, questa mattina al suo ingresso al tribunale Kamovniki, appunto a Mosca, dove verrà letta la sentenza, l'avvocato del trio, Mark Feigin, ha detto: gli daranno una condanna vera e senza condizionale. Scusami, sì. Gianpaolo, è avvenuto adesso fuori, appunto, sono colpevoli, quindi... Che quella è un po' la parola che aspettavamo, no? Però poi non si sa a quanto verranno condannate. Esattamente, sì, questo ci conferma nelle nostre previsioni e comunque confermata la sentenza di colpevolezza per teppismo motivato da odio religioso. Ecco, questo che quella, peraltro, certo, sì, tra l'altro questa la parte, diciamo, come dire, dell'odio religioso, molti attivisti, molti commentatori hanno cercato di stemperarla in qualche modo, anche richiamandosi, voglio dire, a quella che potrebbe essere in qualche modo, mi si passi il termine, la filosofia punk, no? Comunque dissacratoria. Comunque, però è anche vero che parte della comunità religiosa russa si era sentita estremamente offesa da questa profanazione. Certamente, questa è l'opinione della maggior parte, anche nei sondaggi che sono stati fatti, la maggior parte delle persone ammettono di essere state, che le ragazze, ritengono che le ragazze hanno comunque violato i valori morali della società, si sono ritenute offese. C'è da dire però che anche la maggioranza ritiene che comunque non per questo debbano andare in carcere per periodi di anni. Quindi ecco, forse per questo motivo che questo processo in ogni caso è diventato così importante per misurare a che punto è lo stato d'animo della società anche all'interno della Russia, perché ha visto confrontarsi due anime opposte di maggiore tolleranza, un richiamo alla tolleranza, invece chi è intransigente. È come se nei loro tre volti le proteste, che comunque stavano un po', le proteste contro Putin, che stavano un po' anche diventando meno importanti, meno seguite, improvvisamente si è riaccesa la tensione e queste tre ragazze sono diventate un po' un simbolo del rischio che magari diventino addirittura dei martiri, cioè di chi comunque ha avuto il coraggio, pur non essendo niente, ha avuto il coraggio di alzarsi e parlare contro Putin, cosa che un coraggio che non è affatto dato per scontato in Russia. Ecco, fra l'altro le TV internazionali stanno trasmettendo la diretta dalla piccola aula del tribunale, i tre visi delle ragazze sono impassibili, e in qualche modo si aspettavano evidentemente questa cosa. Antonella, ne abbiamo già discusso la settimana scorsa quando appunto ci avvicinavamo a questa data. Il caso Pussy Riot ha una forte valenza politica, lo abbiamo detto più volte. Leggo dalle agenzie che proprio questa mattina un sondaggio del centro Levada, appunto, ha fatto un forse l'hai visto anche tu, ha coinvolto 1600 persone in 45 regioni della Russia. Ebbene, sono state chiamate a pronunciarsi proprio su questo processo. La maggioranza, il 44%, ritiene il processo equo, obiettivo e imparziale. Il 36% degli intervistati aveva espresso fiducia sul fatto che la pena sarà applicata in conformità con le prove di colpevolezza. Solo un 17% aveva espresso dubbi sulla corte. Questo è un dato molto interessante, trovo, perché alla fine, no, con tutte, come dire, le prove di dissidenza, le critiche anche al sistema giuridico russo, eccetera, però apparentemente mi sembra vi sia una generale fiducia, ecco. Sì, è comunque quel zoccolo duro, diciamo, di persone che, così come le persone che sono andate a votare, hanno dato il proprio voto per Putin, che comunque ha in modo più o meno convinto comunque tiene i propri punti forti, che i pilastri della resistenza, che sono dello Stato, che sono appunto la presidenza, la Chiesa ortodossa e il sistema giudiziario, non li mette in discussione. È appunto proprio questa spaccatura che piano piano, perché poi invece c'è l'altra metà della società che invece trova sempre più fuori non in sintonia con sì. I tempi. Questo sistema è un sistema giudiziario che invece viene percepito come un'emanazione del potere. Ecco, credo che siano in pochi che davvero potrebbero dire oggi che questa sentenza non è stata comunque in qualche modo concordata, dettata dal Cremlino. Sì, fra l'altro sempre lo stesso sondaggio dei sociologi dell'Evada pubblica oggi diciamo l'aspetto speculare di questa vicenda e di quanto, come dire, la leva politica sia profonda, e dice che in generale i russi starebbero perdendo fiducia nel proprio presidente. Addirittura dicono molti dubitano della capacità di influenzare seriamente la situazione del paese. Il 52% conferma il proprio supporto per le politiche del presidente rispetto al 57% di maggio scorso. E il 57% ha fiducia in lui, mentre a maggio era il 63%. Quindi in qualche modo, come dire, vacilla forse, no, l'invulnerabilità, l'imbattibilità politica di Putin. Sicuramente la sua popolarità dopo la rielezione è scesa molto ed è ora in pericolo proprio per questo, per questa incapacità di proporre qualcosa, di proporre degli obiettivi a un sistema che per ora regge solo sugli anni passati della presidenza di Putin, e che però ora sembra difficile vedere che cosa si possa proporre in alternativa a questa società che invece comunque guarda avanti e che chiede una maggiore partecipazione. Questo poi è il nocciolo delle richieste dell'opposizione a cui poi si sono sovrapposte le Pussy Riot, cioè una maggiore apertura, una maggiore partecipazione, un ruolo per una società che piano piano si sta maturando, diventa anche più bene, che economicamente vive meglio e che sente bisogno di avere che la propria voce venga considerata di più. È proprio, credo, che la sentenza che aspettiamo per questa sera darà la misura di quanto Putin può diventare capace di leggere queste richieste. Se sarà una sentenza durissima che quindi confermerà la linea dell'intransigenza, lo metterà completamente al di fuori di questa, diciamo, metà di Russia che guarda oltre quello che sono stati i suoi anni passati di presidenza. Ecco, Antonella, l'ultimissima domanda, adesso abbiamo un minuto, poi c'è l'informazione finanziaria. Quanto questo processo potrà dispiegare ancora i suoi effetti? Voglio dire, se verranno condannate, poniamo a 3 anni, che è una delle ipotesi, no, più attendibili che si possono fare. Ecco, dal carcere questi 3 anni di queste 3 musiciste potranno lanciare i loro strali? Avranno la stessa forza che hanno avuto in questi giorni, quando, insomma, l'attenzione mediatica, poi lo sappiamo, no, a un certo punto scema, perché c'è un'economia anche delle risorse dell'informazione, per cui l'interesse nei prossimi 3 anni sicuramente andrà a calare. Come faranno a riaccendere i riflettori? Basta vedere l'esempio di Khodorkovsky, che anche perché ha delle grosse disponibilità sue, quindi ha messo in piedi una macchina che lo segue e che compie ogni sforzo possibile per continuare a mantenere vivo anche nei media occidentali quello che lui è stato, la sua battaglia, le sue idee. C'è da dire che lui ha una grossa visibilità anche nei mezzi di informazione russi. flussi di opposizione, quindi scrive a una colonna settimanale sulla Nova Gazzetta, sicuramente la loro voce si potrà, anzi forse sicuramente per i primi tempi, se ci sarà una condanna severa, questo rimbalzerà contro Putin, anche se poi bisogna vedere quanto la sua immagine, soprattutto all'Occidente, gli stia a cuore, però si attende anche una nuova ondata di proteste, potrebbe riaccendersi. Antonella, adesso l'informazione finanziaria e poi forse ci risentiremo prima della fine di Nessun Luogo Lontano, se verrà pronunciata quella fatidica parola, 3 o 7 anni. Grazie intanto, la borsa. Nessun luogo è lontano. E mentre le tre Pussy Riot stanno ascoltando con comprensibile attenzione la lettura del verdetto, l'abbiamo detto, sono state giudicate colpevoli, resta da stabilire quanti anni in carcere dovranno scontare. E in questo momento il giudice sta appunto leggendo la lunga sentenza. Noi voltiamo pagina e andiamo a Londra, dove un altro grande caso giudiziario ma anche mediatico sta riempiendo le prime pagine dei giornali di tutto il mondo e sta diventando anche un caso diplomatico, è l'affaire Assange. Amongst protesters outside the Ecuadorian embassy, there was speculation that the British government might suspend the embassy's diplomatic status in order to enter the building and remove Assange. You are accepting to start a war with Ecuador. You have no right to arrest Julian Assange. If it was as easy to arrest Julian Assange as his supporters... Julian Assange si è rifugiato un paio di mesi fa nell'ambasciata dell'Ecuador. Ieri, notizia bomba, ha ricevuto l'asilo politico, quindi gode di questa protezione. I suoi fan, i suoi supporter si sono radunati attorno all'ambasciata, vi sono anche attivisti di Anonymous con la tipica maschera che ormai abbiamo iniziato a riconoscere, ma cerchiamo di capire meglio i contorni di questo affare che, ripeto, è giudiziario ma è soprattutto mediatico, informativo. Ed è anche a questo punto diplomatico, perché Assange rischia parecchio. Rischia parecchio, e questo braccio di ferro che si sta profilando tra l'Ecuador e la Gran Bretagna in realtà nasconde un gioco un po' diverso. Ne parliamo con Stefania Maurizi, collaboratrice, giornalista, collaboratrice dell'Espresso e autrice di dossier Wikileaks Segreti Italiani. Stefania, buongiorno intanto. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Speriamo che la linea ci sorregga, perché adesso non ti sento benissimo. Innanzitutto, prima di entrare con te nel vivo, nel cuore della questione Assange, ricapitoliamo quelle che sono state le ultime vicende riguardante l'hacker e giornalista. Giornalista e hacker australiano, Julian Assange affronta la giustizia per la prima volta già all'età di 21 anni. Quando viene condannato per essersi infiltrato in vari computer appartenenti a un'università australiana e nel sistema informatico del Dipartimento della Difesa americano. Ma il momento della ribalta a livello internazionale è legato alla fondazione del sito web Wikileaks, creato con lo scopo di rendere pubblici documenti riservati o coperti da segreto. Il 18 novembre 2010, il Tribunale di Stoccolma spicca un mandato di arresto nei confronti di Julian Assange, con l'accusa di stupro di due donne con le quali avrebbe avuto rapporti sessuali consenzienti ma non protetti, circostanza che in Svezia è considerata reato. 10 giorni più tardi, il 28 novembre, dopo averlo comunque annunciato diverso tempo prima, Wikileaks rende di pubblico dominio oltre 251.000 documenti diplomatici statunitensi, molti dei quali etichettati come confidenziali o segreti. Il 7 dicembre 2010, Assange si presenta spontaneamente negli uffici di Scotland Yard e viene arrestato in seguito al mandato di cattura europeo. Lo stesso giorno, il tribunale respinge la richiesta di libertà provvisoria su cauzione e decide di tenerlo in carcere fino al 14 dicembre. Intanto la Svezia presenta una richiesta di estradizione alle autorità britanniche. Secondo alcune fonti, però, tale richiesta sarebbe finalizzata ad estradarlo negli Stati Uniti, dove lo attende un processo per spionaggio. Dopo 9 giorni di carcere, Assange viene rilasciato su cauzione e la decisione sulla richiesta di estradizione viene rimandata. Il 2 novembre 2011, l'Alta Corte di Londra dà il via libera all'estradizione richiesta dalla Svezia. Il 14 giugno 2012, la Corte Suprema Britannica rigetta il ricorso e Julian Assange si rifugia quindi presso l'ambasciata ecuadoriana chiedendo asilo politico. Ieri, il governo ecuadoriano di Rafael Correa ha concesso lo status di rifugiato politico ad Assange, che si trova ancora nell'ambasciata, mentre il Regno Unito minaccia di arrestarlo con un blitz per poterlo consegnare alla Svezia. Poi in realtà la stampa italiana, ma non solo, si è lanciata in quelle che possono essere le vie d'uscita di Assange. Si parla appunto di tentativo di fuga nascosto dentro un'auto, si parla di l'auto appunto del corpo consolare, per cui lì sarebbe protetto l'arrivo all'aeroporto, ma lì poi toccherebbe il suolo britannico. Stefania Maurizi, tutti scenari da fantapolitica oppure, e quindi vuole dire, si troverà una soluzione differente oppure secondo te davvero Assange cercherà di uscire dall'ambasciata ecuadoregna? Ma credo che siamo in una fase di in cui è veramente difficile fare delle previsioni. Lo dimostra il fatto che nessuno avrebbe potuto prevedere una mossa forte come quella dell'Inghilterra di minacciare addirittura un raid contro l'ambasciata ecuadoriana a Londra, una mossa che diciamo ha sorpreso tutti, e quindi è ancora più incerto l'esito di come Assange ne uscirà da questa situazione, perché comunque Londra ha fatto sapere che non concederà un passaggio, un modo per rendere questa concessione di asilo attuabile, fare in modo che Assange esca dopo 60 giorni dall'ambasciata ecuadoriana in cui è rifugiato, per cui siamo nell'indeterminazione totale, non è facile capire cosa succederà e come ne uscirà. Certo, Stefania, perché l'Ecuador? Perché questa scelta di Assange? Sì, è una scelta che ha sorpreso molti. Ora io conosco molto bene la situazione perché lavoro con loro dal 2009, quindi conosco cose che forse dall'esterno non si capiscono, e il concetto è questo: WikiLeaks ha una forte presenza nell'America Latina, ha un forte supporto, grossa parte delle donazioni viene dall'America Latina, molti supporters vengono dall'America Latina e anche all'interno dell'organizzazione, nello staff di Julian Assange c'è una forte componente dall'America Latina, quindi diciamo questo feeling è stato in qualche modo naturale. Non dimentichiamo poi che nel momento in cui WikiLeaks ha pubblicato i cablo della diplomazia americana, l'Ecuador ha avuto una forte reazione arrivata ad espellere l'ambasciatore americano in Ecuador, e quindi WikiLeaks ha cercato di capire perché, ha creato un dialogo cercando di capire quali erano le ragioni dietro questa espulsione. Diciamo che alla lunga si è creato questo dialogo con l'Ecuador e in generale con l'America Latina. Ecco, quindi ha sorpreso fino ad un certo punto, ecco, diciamo, a chi conosceva un po' la situazione dall'interno. Ecco, alcuni commentatori poi però mettono in luce quella che potrebbe essere letta anche come una mossa molto opportunistica e anche propagandistica dell'Ecuador in chiave, come dire, anti-americana. Ci si erge come baluardo contro il nemico a stelle e strisce, no? Per la difesa dei diritti dell'informazione. Però appunto alcuni dicono, ma è molto opportunistica questa cosa. Secondo te quanto la politica ecuadoriana sta cavalcando questo aspetto? Ma è chiaro che questo, è chiaro che la politica ecuadoriana, è chiaro che Correa sta cavalcando questa ondata di grande popolarità, questo è evidente, sono valutazioni che fanno tutti gli stati, in particolare le farà Correa, che nel 2013 ha le presidenziali, per cui è chiaro che c'è questa componente. E non, tra l'altro non ci dimentichiamo che non appena Julian Assange ha chiesto asilo politico all'Ecuador, il Washington Post, quindi un grande giornale come il Washington Post, se ne è uscito con un durissimo editoriale in cui diceva attenzione, avvertiva Rafael Correa dicendo attenzione, perché un terzo del commercio estero dell'Ecuador, che nel 2011 significava 10 miliardi di dollari, vanno a finire negli Stati Uniti e supportano 400.000 posti di lavoro in un paese di 14 milioni di abitanti. si tratta di scambi commerciali, diceva questo editoriale, preferenziali che sono soggetti al rinnovo del congresso il prossimo anno. Se Correa cerca di autocandidarsi a capo dei nemici degli USA e dell'America Latina e a protettore di Assange, non è difficile immaginare come andrà a finire. Quindi sì. Washington Post ha subito messo in luce questo aspetto. 349-238-6666, gentili ascoltatori, se volete commentare anche, come dire, i riflessi politici di questa vicenda giudiziaria, che però, ripeto, assume anche i contorni della spy story, perché nel momento in cui si cercano, no, si specula sulle possibilità di fuga di Assange dall'ambasciata ecuadoregna, insomma si rasenta appunto la letteratura, la spy story. Fra l'altro le agenzie battono... Scusami se ti interrompo in questo senso, io non parlerei di spy story, io penso che quando un dissidente politico, che sia comunque una persona, chiede asilo politico, le dinamiche poi sono queste, indipendentemente, non c'è un discorso di spy story, c'è piuttosto una partita diplomatica estremamente sottile, una partita a scacchi molto difficile, perché lui comunque è lì dentro e deve trovare il sistema per uscirne. Anche gli stessi scalini dell'ambasciata non sono territorio, non sono riconosciuti, non hanno l'immunità diplomatica, per cui se anche scende le scale viene arrestato, come ha minacciato più volte esplicitamente Londra, per cui c'è questa sottile, difficilissima partita diplomatica. Quando lui ha chiesto asilo, tutti i giornali, commentatori internazionali hanno detto: beh, qui andiamo in un incubo diplomatico, e poi così si è rivelato. Fra l'altro, appunto, le agenzie stanno battendo una fonte diplomatica citata dal Guardian, che ipotizza un impasse che potrebbe durare mesi o addirittura anni, proprio per la questione che dicevi tu, insomma, nel momento in cui lui mette il naso fuori, la macchina si può stringere attorno a lui, insomma. Assolutamente, tra l'altro ci sono, conosciamo esempi di persone che hanno chiesto asilo politico e sono rimasti all'interno dell'ambasciata del paese a cui chiedevano protezione per 5 anni, insomma, ci sono storie ben note di questo tipo, per cui non sarà facile la soluzione di questo caso, è tutt'altro che chiuso, è tutt'altro da capire come si evolverà. Ecco Stefania, tu fra l'altro l'ultima volta hai parlato con Assange un paio di mesi fa, prima che lui appunto entrasse nell'ambasciata, ti chiederò un retroscena su quello, ma intanto c'è il traffico, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Allora, stiamo commentando le vicende giudiziarie e diplomatiche di Julian Assange con Stefania Maurizi, che collabora con L'Espresso ed è anche autrice di il dossier Wikileaks italiano. Stefania, fra l'altro, arriva qualche messaggio al 349-238-6666 che torna sulla questione, quella di partenza, quella svedese. Come funziona il reato di stupro in Svezia? Rapporti consenzienti ma non protetti, si chiede un ascoltatore. Cerchiamo di fare chiarezza su questo aspetto, Stefania. Sì, diciamo che la Svezia ha una legislazione molto avanzata per quanto riguarda i reati sessuali, per cui anche all'interno di rapporti sessuali consenzienti si può configurare il reato di stupro, seppure non va inteso nel modo in cui lo intendiamo nella nostra cultura. Per noi lo stupro è una vera e propria violenza sessuale, quindi non c'è sicuramente un rapporto consenziente, c'è una violenza, appunto, qualcosa che viene imposto. Invece per la legislazione svedese c'è la possibilità di che si configuri il reato di stupro anche all'interno dei rapporti consensuali, come è stato nel caso di Assange e delle sue due partner, che hanno avuto rapporti consensuali, però poi le due donne hanno denunciato che il fondatore di Wikileaks si è rifiutato di utilizzare il preservativo su loro richiesta, per cui per la legge svedese questo si configura comunque come un reato di stupro, seppure una fattispecie minore del reato. Ecco, poi dobbiamo ricordare che al di là di questa vicenda c'è tutte le indagini che stanno compiendo gli agenti dell'FBI da tempo negli Stati Uniti, la paura ovviamente di Assange e dei suoi collaboratori che una volta estradato in Svezia poi finisca negli Stati Uniti, e lì si aprirebbe tutto un altro capitolo. Torniamo a quella telefonata, Stefania, quella del 19 giugno in cui ti sei sentita con Assange. Ecco, io non mi sono sentita al telefono, perché noi non comunichiamo al telefono. Io vorrei far capire ai nostri ascoltatori, io sono l'unica che ha i loro documenti in Italia, perché abbiamo una lunga storia di collaborazione che risale al 2009, quando Wikileaks era veramente un fenomeno marginale, non erano conosciuti, non era Assange, non era il grande personaggio, l'icona che è oggi. Sì. Nel 2009 loro mi contattarono perché avevano in mano un file, una registrazione dell'allora assessore all'ambiente della Campania, in cui si parlava del presunto ruolo dei servizi segreti italiani nello scandalo dei rifiuti a Napoli. Loro mi contattarono perché avevano bisogno di fare delle verifiche per capire se questo file era autentico oppure non era autentico, perché comunque loro fanno verifiche molto scrupolose sui documenti che ricevono, e da lì si creò, io lo pubblicai sull'Espresso nel 2009, era il 6 agosto del 2009, da lì si creò un rapporto, poi abbiamo lavorato insieme su tutti i rilasci, dai documenti sull'Afghanistan, ai Kablo, i documenti di Guantanamo, oggi in questo momento sui file della Siria, quindi c'è una lunga storia di collaborazione tra noi, però non è che ci sentiamo al telefono, lui è presente in ogni progetto, in ogni rilascio di documenti. Julian Assange svolge un ruolo fondamentale, incontra i giornalisti, discute con loro su come presentare, su come lavorare su questi enormi database che sono molto problematici spesso. Certo. Ma allora scusami, toglimi la curiosità, Stefania, vi siete sentiti in altro modo, via mail? Sì, via... Noi comunichiamo con un sistema che è diciamo molto più affidabile, non esiste niente di assolutamente sicuro nella vita umana, nella natura umana, però comunichiamo con un sistema che è più sicuro di media del telefono, e il giorno prima, il 18 giugno, il giorno prima che Julian entrasse in ambasciata, all'ambasciata dell'Ecuador a Knightsbridge a Londra, ci siamo sentiti per una vicenda che riguardava tutt'altra cosa, e lui mi disse: domani succederà qualcosa di molto importante, e io cercai di capire che cosa sarebbe successo. Vedrai che domani tutti ne parleranno, mi lasciò così, e poi, le cronache ci hanno consegnato, sì, insomma, quello che poi è accaduto. Fra l'altro vedo che gli ascoltatori poi tornano su questo, sull'accusa di stupro appunto in Svezia. Sì. Un altro ascoltatore dice: vabbè, le due ragazze avrebbero poi continuato il rapporto liberamente, francamente non ci vedo nulla di scrive avanzato, immagino intenda nulla di verificabile, nulla di adesso non riesco bene a capire, magari ci riscriva Egidio, l'ascoltatore, che appunto sottolinea ancora quanto forse, ma l'abbiamo detto prima, questa accusa di stupro in Svezia sembra tanto strumentale per poi insomma andare all'altra accusa, che è quella di spionaggio che gli Stati Uniti potrebbero formulare. E su questo tema, fra l'altro, un altro ascoltatore dice: tutti bravi a biasimare la pena di morte e poi gli stessi se la prendono con l'Ecuador che salva Assange dal boia. Che ipocrisia, scrive appunto un altro ascoltatore. Stefania, quanto questa vicenda sta inficiando, assieme al taglio di fondi che è avvenuto, quanto questa vicenda sta inficiando la macchina di Wikileaks e la produzione, la ricerca di documenti? Ma dunque, diciamo che il problema fondamentale oggi per Wikileaks è il blocco bancario, cioè il blocco totale delle donazioni messo in atto in modo stragiudiziale, senza alcun provvedimento giudiziario, senza che ci sia alcun provvedimento contro Wikileaks, che oggi è un'associazione assolutamente legale, tant'è vero che quando Wikileaks ha iniziato la pubblicazione dei cablo della diplomazia, un falco americano, Peter King, che presiede il comitato sulla sicurezza, sulla Homeland Security, ha chiesto al Tesoro americano di inserire WikiLeaks sulla blacklist, sulla lista delle sanzioni, e il Tesoro è stato costretto a riportare che non c'erano gli estremi legali per poter sanzionare, per inserire nella lista delle sanzioni WikiLeaks. Quindi il blocco finanziario che è subentrato successivamente è assolutamente stragiudiziale, non c'è un solo elemento legale per cui questo blocco finanziario è giustificabile, tant'è vero che loro hanno fatto ricorso alla divisione antitrust della Commissione europea e da 10 mesi stanno aspettando che la Commissione muova un dito, dia un segno di qualche tipo. Ecco, ma questo quanto sta impattando sul lavoro di WikiLeaks? Questo moltissimo, ovviamente il blocco totale delle donazioni sta avendo un effetto devastante sull'organizzazione, perché è chiaro che nel momento in cui tu non puoi, devi pagare le infrastrutture, devi pagare i server, devi pagare i tecnici che lavorano sui database e sulle strutture informatiche, devi comunque pagare le spese legali che sono enormi, quindi ha un effetto devastante. Io guarda, vorrei sottolineare questo con voi, con i nostri ascoltatori, l'insidiosità, la pericolosità di questo blocco bancario stragiudiziale che oggi colpisce WikiLeaks, ma domani può colpire una qualsiasi organizzazione. Allora arrivano le banche, arrivano le carte di credito, in questo caso sono 5 organizzazioni: Visa, Mastercard, Bank of America, Western Union e PayPal. Arrivano 5 organizzazioni e tagliano il rubinetto di Amnesty International o Emergency o qualsiasi organizzazione perché non ne condividono l'operato, non ne condividono i principi. Beh, questo non può passare. Io credo che dovrebbe preoccupare tutti, dovrebbe preoccupare per primi i giornali, perché allora se domani il nemico diventa il Sole 24 Ore o l'Espresso o la Repubblica e le banche tagliano senza nessuna base legale, che cosa succede? Dove finisce questo abuso? Fra l'altro, sempre al 349-238-6666, un altro ascoltatore dice: vi rendete conto, come dire, sintetizza così la vicenda Assange, per un preservativo consegnato alla sede elettrica? Io non credo che, anche se la vicenda dovesse finire negli Stati Uniti, io non credo mai che si potrebbe arrivare a quel capitolo. Perché non lo so, non mi sembra che ci siano, come dire, le premesse, le condizioni, eccetera. Però su un indebolimento. Questa è un'esagerazione. Cioè, allora, sì, mi sembra un paradosso, sì, come dire, che però, molto, come dire, fotografa una situazione. Però, Stefania, tu che comunque lo conosci, quanto può essere minato da queste vicende giudiziarie? Lo daresti per finito, Assange? No, assolutamente no. Cioè, sicuramente queste accuse lo hanno colpito in modo serio, perché è chiaro che ti ritrovi addosso un marchio infamante. Lo stupro è uno dei reati più infamanti, credo, che possano colpire soprattutto, insomma, chi ha una certa sensibilità sociale verso le donne e così via. E poi di fatto comunque lo ha spinto a entrare in una spirale di spese legali enormi, perché di fatto questo sono 2 anni che sta combattendo questo caso legale infinito, dal 7 dicembre 2010 siamo ancora qui e oggi il 17 agosto 2012, per cui è chiaro che ha aggravato la situazione già compromessa dal blocco finanziario. Però non lo date per finito, non date per finito WikiLeaks, perché hanno ancora risorse umane, risorse intellettuali notevoli, e quindi non lo date per finito. E io vorrei portare un esempio ancora una volta dall'esperienza diretta. Sì. Nel 2009, subito dopo aver ricevuto il documento di cui parlavo sullo scandalo dei rifiuti a Napoli, io li davo per spacciati, perché erano spariti completamente dalla circolazione. Io per 5 mesi non sono riuscita a rintracciarli, non ad avere un contatto con loro, quindi il sito era completamente abbandonato per mancanza di fondi, loro erano irrintracciabili, ero convinta che ormai fossero estinti. Praticamente neanche 5 mesi dopo, nell'aprile del 2010, se ne sono usciti con il video Collateral Murder e poi con tutti i file sull'Afghanistan, i file della diplomazia, quindi a me sembravano moribondi, poi in realtà hanno avuto l'annus mirabilis, il 2010 di WikiLeaks, quindi dimostra che hanno hanno grosse risorse, sia intellettuali sia in termini tecnici, non li diamo assolutamente per finiti. Ecco, fra l'altro altri ascoltatori poi come dire rifocalizzano su quello che è poi il problema fondamentale. A prescindere da tutto, scrive un ascoltatore, divulgare segreti militari non rappresenta forse un reato gravissimo? Non sarebbe strano addirittura se lo facessero fuori per vie traverse? Beh, che sia un reato gravissimo non c'è dubbio. Fra l'altro il soldato che ha dato tutto inizio alle prime rivelazioni di WikiLeaks, che Bradley Manning, non se l'è passata troppo bene in prigione negli ultimi 2 anni. Dobbiamo chiudere, ringrazio Stefania Maurizi per essere stata con noi. Però io preciso un'ultima cosa, non diamo per scontato che Bradley sia la fonte, la presunta fonte. La presunta fonte, grazie della chiarezza. Abbiamo 4 secondi, ringrazio Mire Lucchetti, Massimo Brugnone, Roberto Scaltriti. Noi ci sentiamo lunedì, grazie, buona giornata.